Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Ricordo che dal 28 settembre torneremo con Mario Sechi, Pietrangelo Buttafuoco, In Faccia a Faccia, I gialli della storia, dell'economia, le inchieste e molte altre novità. Ma intanto oggi continuiamo il nostro viaggio nella musica e nella storia. Siamo nel 1975. Franco, cosa ascoltiamo quest'anno? Come nel 1974, il re delle classifiche è Claudio Baglioni. Passerotto, non andare via. Nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia. Cosa è stato di un amore che ha... Claudio Baglioni, sabato pomeriggio. Ciao a tutti, sono Franco Schipani. E ciao a tutti, io sono Alessandra Fiori e ben arrivati in questo 1975. Un anno durissimo per l'Italia, Franco. Le BR hanno lanciato il loro attacco al cuore dello Stato e la contrapposizione tra estrema destra e estrema sinistra sta raggiungendo il culmine. Lo Stato risponde con operazioni e arresti. A Torino un corpo speciale contro il terrorismo è stato affidato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ma Franco, il 1975 si apre con una clamorosa evasione dal carcere di Casale Monferrato ed è quella del brigatista Renato Curcio, uno dei fondatori delle BR, che è stato arrestato pochi mesi prima a Pinerolo proprio grazie alla contestata infiltrazione di Silvano Girotto, detto Frate Mitra, in un arresto organizzato proprio dal generale Dalla Chiesa. Ascoltiamo il generale Dalla Chiesa, ma prima l'infiltrato Frate Mitra Girotto. Il mio ruolo non è stato di informatore, così nel senso volgare del termine, quello che fa la soffiata, poi i carabinieri facciano la loro operazione. Ero a Pinerolo quando sono stati arrestati, ero a 3 metri da loro quando sono stati arrestati e sono stato io che ho dato per radio il via all'operazione. Se è vero che l'infiltrazione esisteva fin dai tempi dei babilonesi, è anche vero che in tutte le guerre tutti gli eserciti hanno attinto a piene mani al nemico vinto. A fronte dell'evasione di Curcio, tanti altri sono gli arresti, ma le Brigate Rosse si riorganizzano. Mario Moretti assume un ruolo determinante e la capacità logistica e militare del gruppo viene potenziata, così come gli attacchi contro i politici, i magistrati, gli industriali e le forze dell'ordine. E tutti questi attacchi si fanno sempre più forti, più frequenti e più cruenti, Franco. Beh, guarda, con le dovute proporzioni, anche nelle case discografiche ci sono delle lotte cruente. L'esempio più lampante del 1975 è questo. Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo. Lo so che non mi ascolterà, piange il telefono, Domenico Modugno, strana storia questa di questo 45 giri, lui pensa, aveva un contratto con l'RCA in scadenza, nessuno glielo ha rinnovato, allora lui si è sentito libero di incidere questo brano nel quale nessuno credeva con un'altra casa discografica. E ha fatto bene, brano ha avuto così tanto successo da ispirare anche un film dallo stesso titolo, quindi Piange il telefono, di Lucio De Caro. Insomma, comunque questa è una canzone telefonata oppure una telefonata cantata. Però guarda Alessandra, adesso ti faccio ascoltare come tutta questa storia delle telefonate è veramente iniziata. Pronto? La più bella sei tu. Chi parla? Il tuo nome è Lili. Sì, sono Lili. Spettinata così. Come dici scusa? Tu mi piaci di più. Ma chi è che parla? Sei tu Gianni? Oh no! Alessandra, questo era il Quartetto Cetra, mitico, leggendario, con Musetto. Musetto. Però adesso andiamo a vedere quella che è la seconda genialata telefonica del 1975. Ciao, sono io. Buonasera, dottore. Amore mio. professor. Buonasera, dottore. Buonasera. Di Claudio Amori, hai capito come è iniziato tutto? Sì. Capito. Allora, insomma, Alessandra, questo 75 è l'anno delle telefonate cantate, Franco. Assolutamente. Ma ci sarà pure qualcuno che continua a usare il microfono. Guarda, ed è proprio il marito della signora Claudia Mori. Ascoltate un po'. Yuppidu, yuppidu, yuppidu. Yuppidu, idu, yuppidu. Yuppidu, yuppidu, yuppidu. Yuppidu, idu, yuppidu. Ebbene sì, Adriano Celentano con Yuppidù, perché mentre la moglie scalava le classifiche, Claudia Mori, lui sì, scalava le classifiche, però non tanto, perché Claudia Mori è arrivata al numero 3 e lui si è fermato intorno al 15-16, però insomma qualcuno a casa i soldi li doveva portare, o la Celentano o la Mori alla fine del mese. Qualcuno insomma non avevano problemi, direi di no. Lui stava facendo l'attore in quel momento, Alessandra, su. Comunque, yuppidù, qui c'è una notizia clamorosa, perché è la nascita del nostro regista Chiappini. E il papà, mi dicono, gli cantava yuppidù per farlo addormentare. Ah, ecco perché non dorme mai la sera. Perché hai capito? Yuppidù, yuppidù. Perché è un po' di tempo non che è sente una bella yuppidù. Ninna nanna, eh? Auguri Chiappini, comunque, auguri, yuppidù, yuppidù, almeno abbiamo finito con le telefonate cantate, Franco. Così credi tu, cara Alessandra, guarda un po' cosa arriva dagli Stati Uniti. He says there's nothing really wrong with me. I'm just missing my man. So honey, please, come on home as soon as you can. Doctor's Order, gli ordini del dottore di Carol Douglas. Sempre una telefonata, Franco, però qui si parla delle indicazioni del dottore. Il dottore, quindi, in questo caso non è l'amante della Mori. Assolutamente, ma tu pensa quante storie d'amore sono finite per colpa dei telefoni. E all'epoca non c'era anche l'SMS, non c'erano i WhatsApp, non c'era Facebook. Bastava una telefonata e gli amori finivano. Adesso basta un messaggio, pensa un po'. Lo sai che una delle principali cause di divorzi, separazioni oggi è WhatsApp, Facebook, cellulari, messaggi, Franco. Se tu vedessi il mio cellulare. No, io lo conosco il tuo fratello. 18 euro tasse comprese. Che me lo fa? Sì, no, ciao, grazie, ci vediamo dopo. Quando mi dicono ti mando un WhatsApp, no, grazie, perché non lo posso proprio tecnicamente ricevere, capito? Comunque in Italia, con il referendum del 74, si è conclusa la discussione sul divorzio. Ma in questo 75 se ne apre un'altra, altrettanto e forse ancora più spinosa, ed è quella sull'aborto. Infatti la Corte Costituzionale riconosce la legittimità delle norme che puniscono l'aborto, ma ammette l'aborto terapeutico. Il paese sta cambiando, Franco, e nel 75 viene approvata anche la legge che istituisce il nuovo diritto di famiglia. Quindi si arriva finalmente alla parità giuridica tra i coniugi e la comunione dei beni. Non è poco. Non è poco. Nel marzo la maggiore età passa da 21 a 18 anni e con questa quindi anche il diritto al voto. Un cambiamento che allora è stato accolto molto molto bene. Io sono sempre stato favorevole perché ritengo che i giovani siano oggi molto molto maturi e quindi avendo poi anche dei figli che con questa legge nuova hanno guadagnato il voto in anzitempo, sono ancora più contento perché veramente i ragazzi, diciamo, se li paragoniamo a quelli dei nostri tempi alla stessa età, veramente noi eravamo molto molto meno maturi. Una ventata d'aria fresca. Sì, una ventata d'aria fresca e che speriamo naturalmente che si traduca in una ventata di democrazia vera, naturalmente, che questi giovani non votino per gli estremismi più accesi. Sono idee, diciamo, ottimiste, però ci credo. Insomma, Franco, si vota a 18 anni, troppo presto, che dici? No, mi ha colpito quando ha detto, sai, i ragazzi di oggi sono più intelligenti di quelli di ieri. Cioè, oggi, immagina, bambini di 6 anni che sanno già, ha capito, con l'iPad che spingono i bottoncini, che io non saprei assolutamente fare. Che facciamo? Li facciamo votare a 9 anni questi bambini? Beh, guarda, Franco, oggi il punto comunque sarebbe andarci a votare. al di là della questione di anagrafica, sì. Sarebbe andare a votare tutti anche col pannolino, ma andiamo a votare comunque. Io guarda, ti dico, ero felicissimo di questa cosa di 18 anni, perché già potevamo avere la patente, poi potevamo andare a vedere dei film che non erano vietati ai minori di 21 anni. E qui torniamo all'Antonelli, Franco. Io speravo che tu dicessi perché così votavo prima. E invece no. Va bene, Franco. Comunque, questi diciottenni col diritto di voto ci andavano a ballare? Assolutamente, però non è come oggi che si andava a ballare di notte. Noi nei club ci andavamo di pomeriggio, perché era quello l'orario in cui si andava a ballare, dalle 4 alle 8, alle 9 e un quarto tutti quanti a casa. E comunque le case discografiche di tutto il mondo nel 1975 hanno un menù pronto. Van McCoy, Foot Stamping Music, Hamilton Bohannon and Rock the Boat con West Corporation. Alessandra, Franco, vedi che non è una moda passeggera, è una, perché ormai anche questa musica ha la sua regina. No, alta, tu la regina ce la fai ascoltare dopo la viabilità, ma io intanto vi ricordo di raccontarci i vostri anni 70 mandando un SMS al 349-238-6666. Torniamo con la regina della disco music subito dopo la viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... Mix 24, musica e storia. Never Say Goodbye e Casanova Brown della regina della disco music 1975, Gloria Gaynor. Alessandra, bentornati nel 1975. Allora, Franco, io sono Alessandra Fiori e io sono Franco Schipani, esattamente, e bentornati, dicevamo, nel 75 con Mix 24 musica e storia, in attesa che dal 28 settembre riprenda Mix 24 con Minoli, Sechi e Buttafuoco, le interviste, i faccia a faccia, il giallo della storia e molte altre novità. Insomma, il classico. Comunque, a proposito di classici e di Gloria Gaynor, non è ancora arrivato il momento del classicone di Gloria, che arriverà e noi ne parleremo, vero Franco? Tu non vedi l'ora, se ti ripeto, ma devi aspettare qualche anno, Alessandra. Comunque, nel 75, ma chi è il numero uno della disco, Franco? Della disco? Guarda che limitare questo immenso artista alla disco sarebbe un sacrilegio, Alessandra, però i suoi pezzi hanno fatto ballare, e non solo ballare, un numero imprecisato di generazioni. Girl, I don't know why Get enough of your love. What am I gonna do? Era Barry White. Attenzione, Alessandra. Attenzione. Perché un recente studio ha dimostrato che con Barry White sono rimaste incinte milioni e milioni di donne in tutto il mondo. Scientifico. Pensa che negli anni 70 e anche negli anni 80, molte ragazze che andavano a trovare il fidanzato a casa dicevano: ce l'hai il profilattico? Sì, amore. Ce l'hai un Barry White? Ma ovvio che ce l'ho. Vendevano insieme il disco e il profilattico. Guarda, che questa è un'idea come non ci hanno pensato gli americani. Comunque. Strano. Allora dici Franco, chi era il Barry White italiano? Guarda, è ancora presto per il Barry White italiano, poi è arrivato molti anni dopo, si chiama Mario Biondi, vi consiglio di ascoltarlo. Arriva però. Fantastico. Però qualcuno che faceva muovere i piedi c'era, anche se non era disco music. Stasera, che sera, stare tutto il tempo. Sera, che sera, Mattia Bazzare. Con questo brano nasce un gruppo storico nel 1975 della musica italiana, Alessandra. Franco, ma ben altri gruppi si scontrano in Italia in questo 1975 e non solo. Il bilancio di questo scontro è terrificante. 69 morti e più di 1000 feriti, 7866 attentati e 4290 episodi di violenza. Sembra un bollettino di guerra. E invece è il bilancio di una stagione politica fra le più drammatiche della Prima Repubblica, quella che negli anni 70 ha visto contrapposte l'estrema destra e l'estrema sinistra, il rosso e il nero. E nel 1975, il 13 marzo, a Milano, viene aggredito da un gruppo di avanguardia operaia Sergio Ramelli, militante del movimento sociale Fronte della Gioventù. Lo colpiscono, infieriscono sul cranio con delle chiavi inglesi alcuni studenti di medicina della Galassia della sinistra. La sua agonia dura 27 giorni. Ramelli muore il 29 aprile. Nella loro lucida follia posso però anche arrivare a capire la logica che li ha portati a questi. Ma è la gente. Sono i parroci che non avevano le chiese disponibili per celebrare il funerale. E la gente che scappa e si nasconde di fronte al funerale di un ragazzo massacrato. Questo io mi ricordo, cioè, come dire, non l'odio della città, il silenzio della città, la gente che scappa lontano e che ha quasi paura di venire vicino a noi a dimostrare solidarietà, quindi la vigliaccheria di quelli che stanno dietro le finestre. Ma intanto, Franco, in questo 75, in Italia, si balla? Dov'è finito il nostro romanticismo? Ma sempre con noi, Alessandra, figuriamoci. Guarda, non è niente male quando vengono fuori dei brani come questi. L'importante è finire, Mina Incontro, Patti Pravo, e infatti proprio in quest'anno finalmente Incontro la dea, l'incubo delle mie notti insonni, Nicoletta Strambelli, detta Patti Bravo, a casa sua. Ho cominciato a scrivere e quindi mi sono organizzato un'intervista. E a casa sua, danni, lampade che bruciano i divani, che no? Assolutamente no. L'unica cosa che è rimasta rotta, infranta, uscito da quella casa con la bionda Nicoletta Strambelli, era soltanto il mio cuore, povero Alessandra. Franco, grazie della tua solidarietà, Alessandra. Prego. Ma comunque, anche questo brano di cuori ne ha infranti tanti. E qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco e un futuro invadente fossi stato un po'... Rimmel, Francesco De Gregori. Pensa, io l'ho visto al Palasport, De Gregori. Ecco, c'erano le telecamere della Rai che riprendevano il concerto. Lui non ha detto una parola tra una canzone e l'altra. Andate via le telecamere, una fene davanti. Ha detto: Francesco, le telecamere sono andate via, dille per favore due parole. E lui disse: grazie. Beh, grazie, sempre di espansivo. Essere intervenuti, grazie. Sempre espansivo, però l'altro anno un po' si è sciolto, perché l'hai visto che cantava con Checco Zalone? Ma io, guarda, vedere De Gregori e Zalone insieme lo trovo semplicemente geniale. Meraviglioso. Geniale. Beh, allora, ascoltatelo anche voi. E noi ci risentiamo invece con Mix 24 Storia e Musica 1975 subito dopo il GR. La patata. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali. Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi che siamo. Atroce malattia. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Mix 24, musica e storia. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. Platters, certe volte a volte ritornano, ma non si capisce perché, ma comunque quando un brano è bello, è immortale, è giusto che ritorni, Alessandra. Quindi è giusto anche che dare il bentornati ai nostri ascoltatori su Mix 24 Musica e Storia in questo 1975 con Franco Schipani e Alessandra Fiori. Grazie caro. In questo 1975 Franco, Franchi, rimaniamo all'estero. E anzi, per una volta, visto che non ti porto in America, ti posso lasciare il tuo vero nome, Franco. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción. Era la voce dell'allora presidente del governo spagnolo, Carlos Arias Navarro, che annunciava in televisione la morte del dittatore Francisco Franco, caudillo di Spagna. Ma in Italia intanto ci sono le elezioni amministrative. Il Partito Comunista cresce, la Democrazia Cristiana perde consensi, Fanfani viene sostituito da Benigno Zaccagnini. E intanto Moro parla di offrire alle forze di sinistra l'opportunità di esercitare un ruolo di governo. Il segretario del Partito Comunista, Berlinguer, inoltre, si avvicina ai suoi colleghi europei e nasce l'eurocomunismo. Franco, scusa, cosa mi vuoi dire con questo sottofondo? Beh, tu dici comunismo, quindi io ho messo profondo rosso dei goblin. No, che Franco, no, forse tu mi vuoi dire invece che questo è l'anno in cui esce Profondo Rosso di Dario Argento. Proprio così, bene, cara Alessandra, bene. L'anno di Profondo Rosso di Dario Argento, e questo è il brano principale dei Goblin, che è un tema veramente ormai famoso, storico. È un film che ha sbancato i botteghini. Questo è un brano strumentale che nello stesso tempo, pensa, quest'anno arriva in classifica. E a funestare i nostri sogni, in ogni modo. Sì, incubi veri. Ma a proposito di brividi, Franco, parlaci di questo Festival di Sanremo. Che è un vero e proprio giallo quello che si consuma nella Città dei Fiori nel 1975. I discografici a questo punto ha detto basta con questo festival, non ce la facciamo più. E neanche se mandiamo un nuovo allenatore in campo a dirigerlo, questo festival ormai non ci serve. Oggi mandano... hai la metafora calcistica. Sì, sì, no, è proprio così, è proprio così, perché mandano in campo la primavera. È come se mandassero la Champions League, capisco, i ragazzi della primavera. Pensa che il telegiornale deve annunciare come al solito il vincitore perché hanno sforato, non va in onda nelle prime due serate, poi pietosamente la Rai lo programma soltanto quando vanno insomma in finale. E sai perché? Perché tutti questi partecipanti nel 1975 hanno venduto tutti insieme neanche 100.000 copie, che prima 100.000 copie le vendeva il quinto classificato, capito? E vuoi sapere perché non hanno venduto? Beh, ascolta. Adesso, con tutto il rispetto per Gilda che canta Ragazza del Sud, ma tu capisci che siamo proprio arrivati, cioè Nilla Pizzi all'ennesima potenza, con tutto il rispetto. Con tutto il rispetto, abbiamo capito il perché. E poi nostalgia dei 50 che galoppa. Sì, ma Alessandra, ci sono anni 50 e anni 50. Oh Diana, solo tu mi conquisti sempre più. Non c'è il mondo, fede a me, mi piaccia più di te, la ragazza del mio cuore che mi avvince col suo amore. Oh, sei tu, Diana. Era Diana di Polanca. Questo brano fa tanto estate, Franco, me ne vuoi parlare? E quindi vogliamo parlare del disco per l'estate, che a questo punto mi sembra un fortino. Cioè Sanremo fallita, tutti quanti sono lì, cioè tutti quanti gli indiani fuori e Caster dentro da qualche parte che lo difende. Comunque la manifestazione non ha successo, neanche questa. Infatti, vabbè, è così, nel 75 è allora così. Dite. Arrendiamoci all'evidenza. Infatti gli italiani sulle spiagge ballavano tutt'altra cosa. Mama, lie. Lady Marmalade, Patti LaBelle and Shame, Shame, Shame, Carol and Boston Garden. Shame, shame, shame on you, Franco, perché io non ci credo. E dai, non si sente proprio niente, niente, niente di italiano. No, si sente qualcosa di italiano. Guarda, il gol della bandiera per l'Italia lo hanno segnato in due. Rivedo ancora il treno allontanarsi, e tu che asciughi quella lacrima. Possibile un anno senza te. Se mi vuoi, lascia il letto dove sei, tutti gli abiti che hai di povertà. Tornerò in Santo California e se mi vuoi, Chico, è il nostro nuovo critico musicale regia, ha detto Franco, era meglio un file di Berlinguer. Dico, vabbè, non lo so, voglio dire, fatto rap, questi magari sono i gol, proprio silenzio, non vabbè, si comunque, è mosso. Vabbè, ragazzi, Franco, era ancora precampionato, non era il campionato quello vero, Alessandra, su, su. Ma scommetto che noi passeremo anche al campionato, però ve lo raccontiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia nel 1975. Io sono Alessandra Fiori e io sono Franco Schipani, ciao. Ciao, stiamo raccontando il paese attraverso la storia e la musica. Dal 28 settembre tornerà il classico Mix 24 con Minoli, Sechi, Buttafuoco, le interviste, i faccia a faccia, i gialli della storia e molte altre novità. Nel frattempo rimaniamo in questo 1975 e Franco, ti racconto che alla fine dell'estate, il 2 novembre del 1975 appunto, in mezzo alle baracche dell'idroscalo di Ostia viene trovato il cadavere di Pierpaolo Pasolini, scrittore, poeta, regista, intellettuale scomodo e profetico per certi versi, quasi capace di presagire la sua morte. Lo sanno tutti che io le mie esperienze le pago di persona, ma ci sono anche i miei libri e i miei film. Forse sono io che sbaglio, ma io continuo a dire che siamo tutti in pericolo. Le vostre obiezioni sono sbagliate, perché non vi siete accorti che dai codici della malavita, come da quella che chiamate politica, è ormai esclusa l'umanità. Oggi si deve uccidere. Voi non avete idea di quanti siano a crederlo. La morte è un comportamento di massa. Erano le parole di Pierpaolo Pasolini nell'ultima intervista a Furio Colombo, all'epoca cronista della Stampa, poche ore prima di venire uccisa. E in un'altra intervista di Franca Leosini a Pino Pelosi, ragazzo condannato per aver ucciso Pasolini, Pelosi ci dà la sua verità su quella notte. Lui diceva: dai, andiamo insieme, ci andiamo a mangiare una cosa, facciamo qualche toccatina. Una persona civilissima, cortese, una voce morbida. E niente, abbiamo fatto quell'atto sessuale, diciamo. Io sono sceso dall'autovettura, mi sono avvicinato alla rete, sono stato aggredito da una persona io e da due persone lui. Pasolini è stato preso letteralmente dentro la macchina e tirato fuori. E lì hanno cominciato a picchiarlo in un modo inaudito e questo urlava, sto poraccio urlava, e questi lo stavano a massacrare. Un omicidio, quello di Pasolini, che sconvolge il paese e i suoi intellettuali e che per molti versi resta ancora un mistero, Franco. Ma la cultura italiana nel 1975 ha anche un evento da festeggiare. Eugenio Montale vince il Nobel per la letteratura. E allora io ti dico che nella musica la storia dell'anno è quella di due ragazzi di origini calabresi. Sono due sorelle con tanti sogni in testa che vivono tra Roma e Milano. Una è già una star, l'altra invece lo diventerà prestissimo. al mondo, Mia Martini e Sei bellissima di Loredana Bertè, due ragazze, due interpreti veramente diverse. Mia Martini l'ho conosciuta negli anni 70 a bordo di un Ford Transit col suo gruppo rock, invece Loredana Bertè l'ho conosciuta anni dopo sul set di Playman mentre stava facendo le foto per una copertina. Comunque, una volta a New York, Loredana Bertè, pensa, in uno spettacolo che facevo il presentatore, fra il primo e il secondo tempo fece delle interviste, c'era una bambina bellissima di 10 anni che era lì che si è felicissima, contenta del concerto, e l'intervista: come ti chiami, Giovannina, cosa vuoi fare da grande? E lei mi disse: la signora. Beh, non male. Cioè, questa aveva capito, non tutto. Male. Aveva capito tutto. Quasi quasi la insegno mia figlia come risposta. Ecco, invece, a proposito dei sogni, questo gruppo che troviamo in classifica nel 1975, di andare in classifica non ci pensavano proprio. E nata non creatura, è nata nire, e a mambo chiamma gire, sì signoro chiamma gire. La nuova compagnia di canto popolare, i primi del Napoli Power con Tamuriata Nera, e poi Antonello Vendì che cantava in romano, ovviamente, Roma, Roma, Roma. Un po' come fosse Antani, Franco. Un po' sì, Alessandro. Un po' Antani. Un po' Antani, sì. Terapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribà e Coppefallina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto, mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro? Era Ugo Tognazzi in Amici miei, Franco. Il primo, quello del 75, appunto. Gli schiaffi alla stazione. Franco, te li ricordi quelli? Guarda che quel film ha dato a tutti quanti noi il terrore di andare veramente alla stazione, perché c'erano quelli che ormai erano, che era il loro scherzo preferito. Noi avevamo il terrore di prendere tu il treno. Tu terrorizzato, io ti facevo dall'altra parte, quello che andava a dare lo schiaffo. Ma quando mai? Perché avevo un terrore della forza pubblica, a me mi arrestavano subito, che con la iella che c'ho, guarda, credimi, il primo a essere preso dai carabinieri sicuramente sarei stato. Senti, io. Senti, ma invece ti ricordo quest'altro evento? The winner is Italy for Amarcord. Amarcord di Federico Fellini vince l'Oscar per il miglior film straniero e ho coronato un sogno perché ho fatto l'annuncio. And the winner is. Allora te lo faccio io anche io l'annuncio. Dall'America arrivano anche questi brani. Just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. What a difference again. 24 little hours from the sun and the flowers. Scusa, ma non ho proprio resistito. Perdonato. Guarda, era Feelings di Morris Albert, I'm Not In Love dei 10cc e What A Different Day Makes. Allora, a questo punto della scaletta io me ne vado, vi saluto, perché Sapete perché? Perché l'ultimo brano in scaletta ormai ce l'hanno in appalto Alessandra e Antonella Migliacci. Io non ne so niente, una bugia cosa loro. Perché oggi te l'abbiamo scippato, perché negli ultimi giorni hai fatto un po' come volevi te. Per cui ciao Franco, ciao. Ciao ragazzi, perché ci oggi... vediamo, ci Bravo, vediamo la prossima volta. Perché oggi il brano è Sei bellissima, reinterpretato da Dolce Nera. Ciao da Alessandra Fiori, ci vediamo nel 1976 e da... Non te Franco andare. Schipani, che è ancora qui, se vuole sentire questo brano, ciao. Ciao. Sempre sono ancora tua e mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi quando ero innocente, a quando avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e mi obbligavo. Sei bellissima, sei bellissima, accecato d'amore mi stava guardando.